Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Colpo della strega? La fretta non è una buona consigliera. Si potrebbero sintetizzare così le linee guida delle società scientifiche che commentiamo oggi insieme al professor Luca Sconfienza, direttore della radiologia al Galeazzi di Milano e professore all'Università di Milano. Queste linee guida ci dicono che il mal di schiena in generale ha bisogno di un po' di tempo prima di essere trattato e sottoposto a indagine. Le linee guida delle maggiori società scientifiche e anche quello che ci indica il Ministero della Salute suggerisce il fatto che fare un esame di imaging prima di 2, 4, 6 settimane a seconda dei casi dall'insorgenza del mal di schiena non è una buona idea. È stato dimostrato infatti che una risonanza magnetica fatta prima di 6 settimane non modifica significativamente la terapia che possiamo fare per il nostro mal di schiena. Quindi il consiglio ogni volta che abbiamo un mal di schiena non è quello di correre dal medico di base e pretendere, anche in certi casi, di avere prescritta una radiografia o una risonanza magnetica, ma in qualche modo seguire il consiglio di una terapia medica efficace senza però aspettare appunto la necessità di una risonanza magnetica, perché è stato visto che la risonanza magnetica nei casi più generali, quindi nei casi di lombalgia più classica in cui vi è un dolore localizzato o un'irradiazione all'arto inferiore, che è un tipico segno di sciatalgia, non ci dà delle informazioni aggiuntive, e questo è ancora più vero in quei soggetti in cui questa patologia è particolarmente ricorrente, quindi nei soggetti che soffrono di lombalgia o di lomboscialgia cronica in cui non c'è un aggravamento dei sintomi. Quindi sempre fidarsi del medico di base senza voler correre assolutamente all'ospedale per fare una risonanza magnetica. Ci sono dei casi, professor Sconfienza, in cui invece è bene rivolgersi prontamente al medico per raccontare la situazione e intraprendere quindi un percorso diagnostico? Il medico di base valuta sempre lo stato di salute dei pazienti e quindi ci indirizza nel modo migliore. Se da una parte non dobbiamo insistere nei casi che sono meno gravi, ci sono delle condizioni invece in cui dobbiamo essere un pochettino più attenti. Questo vale per i soggetti un po' più a rischio, come ad esempio le donne in menopausa che possono avere un'osteoporosi che può creare una frattura, o ad esempio i pazienti che hanno una storia oncologica in cui il mal di schiena può anche essere il segno di una patologia più grave sotto. O infine, se abbiamo delle perdite di sensibilità, soprattutto nella zona del perineo, quindi nella zona genitale, oppure anche dei disturbi magari urinari, ecco, anche questo può essere un segno importante da riferire al nostro medico. Grazie professor Sconfienza per essere stato con noi. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, darvi appuntamento come sempre col nostro video pillola di salute sulla pagina di Obiettivo Salute, e poi domani ci sentiamo come ogni sabato a mezzogiorno per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Non mancate!